24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Raffaella Calandra. In primo piano in questa edizione il pressing sulla crescita negli incontri a Bruxelles del Premier Monti, la crisi in Portogallo e il rapporto tra Europa e media, dalla Commissione inglese al Festival internazionale di Perugia. È stata dunque la crescita il tema centrale degli incontri a Bruxelles del premier italiano Mario Monti. L'Italia, insieme ad altri paesi, ha commentato, è stata la prima a sottolineare la questione della crescita nell'agenda europea. Il presidente del Consiglio, parlando agli industriali europei, rivendica l'apertura della Germania, ma avverte no ad uno sviluppo effimero. Il corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, Beda Romano. Mario Monti ha sottolineato più volte l'importanza di comunque continuare a ridurre l'indebitamento, ha messo l'accento sull'importanza delle riforme strutturali all'economia, ma ha fatto notare come riforme da sole non possono creare nuova crescita. Ha spiegato che per creare nuova crescita e quindi accelerare anche la riduzione dell'indebitamento è probabilmente necessario un programma di investimenti pubblici e privati. In questo senso il Presidente del Consiglio ha quindi riproposto un suo vecchio cavallo di battaglia, ossia la regola d'oro, che prevede giusto appunto il non calcolo degli investimenti pubblici nel disavanzo dello Stato. E nello stesso giorno in Italia l'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sul documento di economia e finanza. Nel testo si chiede che la ratifica del Fiscal Compact sia accompagnata dall'impegno, si legge, per una politica di investimenti finalizzata allo sviluppo dell'impresa e dell'occupazione. E il sostegno a questa politica può derivare dall'emissione di project bond, dagli euro bond e dagli stability bond, si legge ancora nel testo. Ora in Olanda, dove il Parlamento è giunto ad un accordo su un piano di austerità per il 2013 chiesto dall'Unione Europea. Lo hanno annunciato i capi dei 5 grandi gruppi parlamentari a qualche giorno dalle dimissioni del governo. Ora in Portogallo, Lisbona non chiederà più tempo né altro denaro per completare il programma di risanamento concordato con la Troica. Lo ha detto il ministro delle finanze portoghese Vítor Caspar in Parlamento. E la campagna elettorale in Francia rimbalza nel Consiglio dei Ministri europei. Reinstaurare controlli per circostanze eccezionali legate ai flussi migratori. Il francese Claude Guéant ha presentato questa proposta franco-tedesca a Bruxelles, ma è stato subito stoppato dalla commissaria europea agli affari interni. La riforma di Schengen è troppo importante perché sia ostaggio di una campagna elettorale. È da fare, ma non come vorrebbe Sarkozy, ha detto Cecilia Malmström. Parliamo ora di auto. La Volkswagen ha superato ancora una volta le stime degli analisti e nel primo trimestre dell'anno ha registrato una crescita dell'utile netto dell'86% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, a 3,18 miliardi di euro. Quanto alla Fiat, per l'amministratore delegato Sergio Marchionne, considerando la difficile situazione in Europa, il primo trimestre, ha detto, è andato in modo soddisfacente. Sentiamo i dati da Andrea Malan. Il fatturato di Chrysler pesa per il 60% sul totale del gruppo, sono oltre 12 miliardi di euro su 20 in un trimestre, e l'utile della gestione ordinaria pesa praticamente per il 101%, cioè sono 872 milioni di euro che ha guadagnato Chrysler contro 6 milioni di rosso per il resto del gruppo. Questo è dovuto da un lato al boom di Chrysler, che ha aumentato le vendite del 40% negli Stati Uniti, che è il suo principale mercato, e dall'altro alla grave crisi del mercato europeo, meno 20% in Francia, meno 20% in Italia, una Fiat che perde quote di mercato e che quindi a livello di attività europee, sempre in questi tre mesi, ha perso 170 milioni a livello di risultato operativo. Naturalmente questo lascia fuori i marchi Ferrari e Maserati, che sono tenuti anche contabilmente a parte. E siamo alla giornata in borsa. Chiusura contrastata per le borse europee, con Milano e Madrid che sono andate giù rispettivamente dello 0,66 e dell'1,29% e con Francoforte che invece è salita dello 0,53%. Gli investitori hanno mostrato un atteggiamento cauto verso le piazze periferiche, soprattutto dopo l'esito dell'asta italiana di BOT. Il Tesoro ha segnato 8,5 miliardi di titoli semestrali, ma il rendimento lordo è salito all'1,77%. In aggiunta è emerso che la fiducia delle imprese in Italia è peggiorata. A Piazza Affari sono andate giù le banche dopo la volata della vigilia. Hanno invece accusato un calo di oltre il 5% le Fiat nel giorno della diffusione della trimestrale, che non ha convinto gli esperti per i conti in peggioramento delle attività italiane, più che controbilanciate dall'ottima performance di Chrysler. Sono invece andate bene le Fiat Industrial, più 1,6%, premiate per i numeri di inizio anno. L'automatica, più 2,4%, ha festeggiato la revisione al rialzo dell'outlook da parte di Standard & Poor's. Sono state gettonate anche le Ferragamo, più 4,1%, nel giorno dell'assemblea dei soci e nell'attesa dell'esordio in borsa della matricola Brunello Cucinelli. Peraltro, nel comparto del lusso, a Parigi sono salite di oltre il 4% anche le PPR all'indomani della pubblicazione dei conti trimestrali migliori del previsto, soprattutto grazie all'andamento del polo del lusso Gucci Group. Eleonora Micheli da Radio Cor per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. La Torino-Lione è un'opera prioritaria per l'Europa e l'Italia, ne è convinto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Corrado Passera. Sentiamolo al microfono di Alessandra Schepisi. È un'opera che ha valenza locale, ma ha valenza nazionale e ha valenza europea. E anzi, questo pezzettino di questo corridoio, che è uno dei quattro corridoi che interessano l'Italia e che collegheranno e che faranno l'Europa, è un pezzetto determinante poi per il completamento di tutte le opere, sia orizzontali che verticali, che nel corso dei prossimi decenni verranno realizzate, e molte sono già in corso di realizzazione, per creare un'Europa più collegata e quindi un'Europa più Europa sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dei cittadini e delle società. 40.000 norvegesi sono scesi in piazza a Oslo per cantare Bambini dell'arcobaleno, una popolare canzone per bimbi odiata da Anders Breivik, il serial killer che nel luglio del 2011 ha ucciso 77 persone. Breivik in questi giorni è a giudizio per strage. Ora in Gran Bretagna, secondo giorno di interrogatorio davanti alla commissione Livingston per Rupert Murdoch. Credo che i vertici di News International furono tenuti all'oscuro di quanto stava accadendo, ha detto il magnate alla commissione che indaga sulla stampa britannica a seguito dello scandalo che portò alla chiusura del tabloid News of the World. Murdoch ha ammesso che qualcuno tentò un insabbiamento delle accuse di spionaggio e di intercettazioni telefoniche, ma ha scaricato la colpa sui cronisti. Alla domanda se non avrebbe dovuto invece accorgersene, ha risposto: devo dire che ho fallito e ne sono dispiaciuto. E continuiamo a parlare di media, ma in chiusura andiamo a Perugia, dove fino a domenica si tiene il Festival Internazionale del Giornalismo, diversi gli incontri dedicati proprio all'Unione Europea, come ci racconta da Perugia Gigi Donelli. Sì, Raffaella, buonasera. Effettivamente, come dire, è inevitabile affrontare almeno alcuni temi che sono poi quelli ormai diventati consueti, come il tema della democrazia, della rinascita degli estremismi, ma anche quello delle sfide energetiche, quello ancora più generale dell'Europa e della morte o rinascita della politica. Insomma, in un anno in cui parliamo molto di Europa e sentiamo profondamente la crisi dei paesi che la compongono, ma anche del sistema europeo, a Perugia si affrontano una serie di workshop nei prossimi tre giorni queste tematiche. Direi che quella forse più calda e anche più delicata riguarda la crisi, l'occupazione, la disoccupazione giovanile. I dati sono impressionanti, purtroppo colpiscono pesantemente soprattutto le fasce d'età che dovrebbero accedere al primo mercato del lavoro. Ecco, l'esigenza di una governance europea, quindi di una guida per gestire questa fase di crisi ed entrare in un nuovo tempo dell'Europa del lavoro, forse è il primo e uno dei più importanti di questi incontri a cui partecipano giornalisti di tutta Europa, ma esponenti naturalmente della Commissione europea in Italia. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un saluto a tutti voi da Raffaella Calandra. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.